amici. Sono il bambino Alberto. Questa è la segreteria telefonica di Chiedo Asilo. Lasciate un messaggio dopo il beep. Cappa Drago, sono l'amministratore delegato. Ma che segreteria del c***o avete messo? No, ma si può mettere in un asilo una segreteria telefonica così? Non è accettabile, devo per forza tornare io, In questo momento però non posso, sono all'aeroporto di Brindisi, sto tornando indietro. Sono venuto per aprire un asilo qua, ma non ho trovato i finanziamenti. Capita adesso. Non lo so, cambiate quella segreteria.